Pronto? Ciao, come stai? Bene, bene, molto bene. Sei in cucina? No, no, oggi sono in ferie, in riposo, sto pomeriggio riposo. Ma riposi perché sapevi di essere in puntata e quindi... No, no, a lunedì pomeriggio riposo sempre. La mattina sempre. No, però, invece? No, la mattina ho cucinato, stamattina ho cucinato. Ma perché, scusami, tu dici ti sei aperto la tua gastronomia? Sì. Alla fine ho fatto il cuoco fino a 26 anni e poi dopo ho smesso e ho aperto una mia gastronomia, un negozio dove vieni a prendere piatti pronti da sforzo. Che è diverso dalla rosticceria, la rosticceria arrostisce. Sì, è quasi uguale, io faccio anche altri prodotti, non solo arrosti o robe del genere. Ma dov'è che abiti, Alberto? In provincia di Lecco, a Bulciago. E quindi la tua gastronomia è a Bulciago? Sì. Senti, ma scusami, prima a Bulciago non c'era una gastronomia, sei stato il primo ad aprirla, cioè nel senso che la cosa che vorrei capire è, la gastronomia è una roba che, visto che in Italia più o meno molti si cucinano, no? Sì, è vero, o perlomeno molti cucinano, la tradizione però... è quella di cucinarsi, adesso le cose sono cambiate. Sì, abbastanza, un po' iniziano a venire, per esempio quando hanno qualche cena con qualche ospite, magari vengono a prendere un primo, vogliono che gli fai te il menù. Vengono perché non hanno voglia di fare le lasagne, vengono. Ma quindi fai catering anche? Ogni tanto sì, qualche buffet anche per ditte o robe del genere. Sì. Senti, quindi quali sono i tuoi orari, Alberto, esattamente? Adesso, cioè, una gastronomia, allora, che orari è? Ecco, adesso della gastronomia faccio dalle 7 del mattino fino alla 1 e poi dalle 3 e mezza fino alle 7 e mezza 8. Scusami, ma c'è qualcuno che sta al banco o fai tutto tu? Sì, siamo io, le mie due sorelle, mio papà che è in pensione, ma ci dà una mano. Però quello che mette le mani nel cibo sei tu? Io, e adesso mi aiuta anche mia sorella, perché da solo non ce la facevo più. E quanti piatti prepari al giorno? Per esempio, oggi adesso stiamo servendo, che facciamo tipo da mangiare anche per un oratorio, ho fatto tipo per 80 bambini, ho fatto da mangiare. Ma la mensa? Tipo una mensa gli ho fatto, sì, loro in oratorio, io gli porto giù i piatti già caldi, li sporzionano giù là e li mangiano. Sì, li mangiano, voglio sperarlo per loro e per te. Senti, com'è che decidi quali piatti fare in ogni giorno? In base alle richieste, di solito, e poi in base a me, in base alla stagione, in base ai prodotti che trovo e tutto. Comunque nella gastronomia non è che puoi fare svariate cose. Fai più o meno cosa fai? Lasagne, cannelloni? Ecco, per esempio oggi ho fatto le zucchine ripiene, le lasagne, poi ho fatto degli arrosti ripieni con tipo una cima alla genovese, il vitello tonnato. Ma quando le cose non puoi più venderle e rimangono lì, no? C'è una famiglia numerosa, dai, ok? Cioè, quindi te li mangi a casa, giusto? Sì, non è... Cioè, quant'è non è la roba che butti via, Alberto? No. Perché è come un ristorante, no? Si fa per dire, praticamente, cioè, bene o male sai quanta è la tua clientela, sai quanta roba devi prendere, porzioni anche le cose che fai. E poi tipo, se oggi ci sono polpette che hanno una sfumatura verde, sai che ieri c'erano gli spinaci, se hanno la sfumatura rossa c'erano le carote. No, le polpette non vanno via alla grande? Sì, le polpette vanno via, ma non agli spinaci, come dici te. Senti, quando ascolti la radio, quindi, in cucina? Sì, in cucina l'ascolto te, Destini Incrociati, tutti. Dimmi, tutto il giorno Radio 24. Dimmi invece se c'è un piatto particolare che ti sei inventato tu, Alberto. Allora, un piatto particolare che mi sono inventato io, l'avevo fatto per un concorso un anno fa, ma dopo non me l'hanno accettato perché io non sono un ristorante. Era un piatto tipico della zona, dovevo fare, era un raviolo aperto con del filetto di pesce persico e degli asparagi selvatici che crescono qua da noi. Alberto, senti, ti ringrazio moltissimo per il racconto e per la chiacchierata. Ti devo salutare. Quest'estate tu lavori, ovviamente, sei chiusa la gastronomia. Sì, sono appena tornato dalle ferie, adesso perché c'ho anche tipo da far da mangiare alle squadre di calcio, così che fanno dei ritiri, il lavoro tutta estate. Beh, allora a luglio noi con il meglio di siamo ancora qui, allora. Ci sentiamo lì. Ti ascolto sempre. Ciao Alberto, grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao.